Palla Spicchi con Carlo Genta. Buonasera a tutti. In pieno mondiale è arrivato l'ultimo giorno di scuola anche per il basket, per Palla Spicchi, per il popolo del basket. Mentre Brasile e Costa d'Avorio sono sullo 0-0 al quinto del primo tempo, mentre l'Italia oggi si è complicata tremendamente la vita e terrà banco nei prossimi giorni. Salutiamo, abbiamo salutato ieri sera il campionato che si è chiuso, che è stato ucciso dal solito ineffabile maggiordomo biancoverde, Montepaschi Siena, quarto scudetto in fila, una serie finale e una gara 4 all'interno di questa serie finale, quella di ieri sera, senza alcuna discussione. E maggiordomo che insomma cambierà il vestito, ma non ha nessuna voglia di andare in pensione. Oggi è il giorno dei saluti anche per i nostri compagni di viaggio, prima fra i quali Stefano Valenti, Superbasket e Radio 24. Ciao Stefano. Ciao Carlo. Maggiordomo non va in pensione, mi pare. Non ne ha nessuna voglia. Il maggiordomo è sempre pronto a fare il suo lavoro nel miglior modo possibile e in guanti bianchi. Sono 4 anni che in guanti bianchi Siena si prende il campionato senza lasciare impronte, perché insomma è talmente sottile e netto il suo modo di essere, di operare, così ben costruito in anni di esperienza, che poi nessuno riesce ad imitarlo fondamentalmente, perché il motivo è anche questo. Ieri sera Milano ci ha provato più che altro per l'orgoglio, perché era una serie già chiusa prima di cominciare, che comunque Siena ha messo in cassaforte fin dai primi minuti della prima partita. Anche ieri sera l'impressione, dopo un primo tempo in cui Milano ha combattuto, anche un terzo quarto in cui Milano, con tutte le energie che aveva, provato a rimanere dentro quella partita, però tutti eravamo lì ad aspettare quei 5 minuti di Siena fatali, che sono stati aperti peraltro curiosamente da una schiacciata sbagliata in contropiede da Hall. Molti erano i passi da Dio, poi ne parliamo in questa gara, uno di questi era quello di Mike Hall, che non lascerà grandi rimpianti io credo a Milano. Schiacciata sbagliata, poi tecnico subito da Bucchi, e da lì è partita Siena nel parziale che è arrivato puntuale come le tasse. Sì, hai analizzato un momento fatto da circostanze che hanno dato a Siena quel che probabilmente, di cui non aveva neanche bisogno, però quando poi si crea l'attimo Siena è micidiale e non lo spreca. Quella schiacciata sbagliata da Hall ha creato veramente la percezione che, come dire, anche lo sforzo che Milano stava provando a produrre alla fine non sarebbe stato quello decisivo per estendere una serie a gara 5, i cui poi contenuti probabilmente non si sarebbero distaccati troppo da quello che abbiamo visto nei primi 4 atti. A Milano va dato merito di averci provato anche ieri. Quel tecnico a Bucchi è arrivato al momento assolutamente più sbagliato sul piano del timing, perché Milano era lì aggrappata comunque alla partita sul meno 3, e poi dopo Siena se ne va, perché la forza di Siena è che quando mette anche semplicemente 7-8 punti tra sé e l'avversaria, per chi è dall'altra parte diventa già il tempo in cui non può più sbagliare assolutamente nulla, perché recuperare quei 7-8 punti sono veramente un macigno. Stefano, abbiamo visto, ed è un dato importante che non mi aspettavo, abbiamo visto circa 20.000 persone in 2 partite al Forum di Assago, di una serie che Milano non poteva vincere. Sì, è vero. Io sono rimasto sinceramente più sorpreso dal dato di ieri, per quanto si trattasse di un giorno semifestivo, diciamo, vigilia del weekend o weekend già iniziato, a seconda di come e quanto uno lavora, diciamo così. Sì. Mi aspettavo il bel pubblico per gara 3, me ne aspettavo meno per gara 4, complice l'esito di gara 3, che aveva ricordato per certi versi quello che era successo l'anno scorso in gara 4. E invece Milano ancora una volta è stata, devo dire, anche vicino alla squadra, ha anche sopportato in silenzio le difficoltà della partita, il passato recente fatto di una squadra che non riesce mai a battere Siena e di un Piero Bucchi che non riesce mai a battere Siena, non è l'unico, intendiamoci, però insomma non c'è mai stata l'idea, la speranza, la possibilità che il colpaccio venisse fuori. Quindi Milano promossa da questo punto di vista, complessivamente meno la squadra, anche se comunque in un bilancio che non può essere positivo, perché Milano ha fatto peggio del previsto in Eurolega, ha fatto peggio del previsto in Coppa Italia, sì, e in campionato, in finale non è riuscita a limare nulla di quello che già aveva subito l'anno scorso. Milano se ne esce comunque, secondo me non è un dato da sottolineare, perché sposta a livello di programmazione societaria un diritto di Eurolega senza passare dalle qualificazioni, sì. Ed è importante perché significa che non bisogna essere già pronti a fine settembre, quando tutti gli allenatori ci dicono che non sono pronti, uh-huh. E soprattutto si evitano qualificazioni rese molto più difficili quest'anno dal fatto che non ci sono 8 squadre ma 16 squadre, si lotta per solo 2 posti nei gironi e uno di questi verosimilmente sarà appannaggio del Khimki, che difficilmente avrà una squadra più debole, anzi certo. L'ha già rinforzata prendendo ad esempio Planinic dal CSKA. Certo, certo, e poi si tratta di vedere cosa ne farà Milano di questo diritto di Eurolega, perché poi se vengono a dirci, come Proli ha fatto nel corso della stagione, che l'Eurolega serve come allenamento per un campionato in cui pure, come stavi dicendo, non raggiungi i risultati sperati al di là di questa finale, e allora poi parliamone. Ieri tra l'altro un clima molto strano al forum, festa ma non gioia selvaggia da parte di Siena, e come fai ad avere gioia selvaggia quando sai già come finisce, quando arriva il maggiordomo col coltello in mano. L'addio di Terrell McIntyre anche alla sua gente, ed è un giocatore straordinario che probabilmente lascerà il campionato italiano. E per quanto riguarda Milano, quello che non ti aspetti in una finale scudetto, cioè fischi per chi l'ha raggiunta, in particolare per Bucchi, ma fischi anche per Bulleri nel corso della premiazione. C'è stata questa alternanza di fischi e di applausi da parte del pubblico milanese per i protagonisti della stagione milanese. Sì, sono 2 anni che il forum si trasforma un po' in una sorta di scala, cioè dove si applaude o si fischia il tenore di turno. Allora l'anno scorso accadde con Luca Vitali, fu l'unico fischiato e Luca Vitali se ne andò. Quest'anno il giocatore del Milan è stato Massimo Bulleri, probabilmente in maniera un po' ingrata, perché mi sarebbe piaciuto che la gente non avesse dimenticato che nel momento difficile di Milano, in uno dei tanti momenti difficili di Milano, sono stati gli italiani a portare la squadra fin dove la squadra è arrivata. C'era anche Bulleri in quel gruppo lì, come c'è stato Marco Mordente, come c'è stato Mason Rocca, come c'è stato anche Stefano Mancinelli, qualche alto e basso, però c'era anche lui, insomma. Quindi non lo so se quei fischi in realtà fossero per la stagione, non credo per una finale dove magari qualcuno è arrivato anche stanco, scarico, spento, perché durante l'anno la società ha fatto una scelta sul mercato fondamentalmente di non operare, e questo ha portato via risorse fisiche ai giocatori di Milano e soprattutto a quelli che ho citato, motivo per il quale probabilmente non rivedremo Massimo Bulleri con Milano l'anno prossimo. Per quello che riguarda Bucchi, sinceramente la sua analisi di ieri sui fischi mi ha lasciato un po' perplesso, gliel'ho anche chiesto in sala stampa. Lui ha attribuito questi fischi che gli sono piovuti dalle tribune e non dalla curva alla gestione del caso Becirovic. Secondo me invece anche questi quello fischi... Quello è il pretesto. No. Anche questi fischi hanno un'origine un po' diversa. La gente fondamentalmente ha apprezzato la squadra, ma le tante sofferenze, comunque i tanti soldi spesi per questa squadra, non possono giustificare una stagione in cui comunque degli errori sono stati commessi. L'importante è non ripeterli, però Milano, ed è questa la verità, non può ripetere un'altra stagione da secondo posto. Certamente, Stefano. E per chiudere, quanto a Siena, come detto ieri è stata la sera dell'addio ad alcuni giocatori. Minucci ha anche fatto i nomi, ma non sono segreti per nessuno perché li conosciamo da tempo, no? Quello di Eze, quello di Domercant e soprattutto quello di sua maestà Terrell McIntyre, che, e non mi aspettavo niente di diverso, ha salutato la compagnia con una partita mostruosa. Sì, ha giocato una finale mostruosa, sembrava un McIntyre un po' in calo, McIntyre con problemi fisici e quelli c'erano sicuramente, McIntyre ha giocato una finale da uno che comunque vada aveva dentro il desiderio di lasciare un grande ricordo, è stato negli ultimi anni uno dei migliori playmaker di Eurolega, è stato riconosciuto con un trofeo per questo, ha voluto lasciare la scena come giocatore decisivo, ha dominato il confronto con chi l'anno scorso era il suo backup a Siena, cioè con Morris Finlay, poi alla fine il bellissimo gesto di chiamare sul palco nel momento in cui ha ricevuto il premio Romain Sateau, che è stato l'MVP della stagione regolare ed ha giocato anche lui una grande finale. È la fotografia Fotografia di Siena, dove Siena che quest'anno ad esempio ha accolto David Hawkins, che non è stato protagonista di una stagione scintillante, però è stato protagonista di una stagione vincente ed è quello che voleva. A Milano cosa è mancato alla fine della fiera, e se ne è anche parlato? È mancato un potenziale offensivo e potenziale fisico, beh, era quello che aveva con Hawkins l'anno scorso. Certo, dove va McIntyre, Stefano? Guarda, è giusto, ieri parlavo con il presidente della banca Montepaschi, Giuseppe Mussari, che giustamente mi diceva: noi siamo diventati quello che siamo oggi prendendo giocatori che non erano quello che vediamo oggi. Non lo era McIntyre, che veniva da una stagione di assestamenti importante a Reggio Emilia, non lo era Romain Sato, pescato dalla A2, non lo era per certi versi neanche Christoph Lavinovic, che non aveva in Europa la considerazione che ha oggi. Quindi Siena per certi versi ha rischiato, non eccessivamente, ma ha fatto scelte che magari altri club non avrebbero fatto. Probabilmente Milano un Sato non l'avrebbe mai guardato, e McIntyre chissà. Siena lo ha fatto, li ha messi in un sistema, però è un sistema consolidato da anni, dove le scelte sono chiare e le gerarchie sono rigide. Questo ha portato a quel che oggi vediamo, ed è giusto applaudire: 4 scudetti consecutivi, 5 nel giro di 7 anni. È, come dire, si dice, è l'esempio. Non è per tutti, sicuramente. Mi viene da pensare che però lo possa essere per un club che ha disponibilità economiche come l'Armani di quest'anno, certo, e degli anni scorsi, e complessivamente, diciamo, dell'entrata di Giorgio Armani del basket, che è un bene di un prezioso assolutamente clamoroso per il nostro mondo. Non c'è dubbio. Grazie Stefano, buona estate. Grazie a voi, ma per non la stagione, sparire. Al piacere di risentirci l'anno prossimo, volentierissimo. Ma naturalmente, anzi, da agosto, perché c'è l'Italia, ci sono le qualificazioni europee per noi estremamente importanti. Palla spicchi. Dunque, come dicevo, mentre Brasile Costa d'Avorio 0-0 19esimo ed è uno spettacolo non migliore, e non è una bestemmia, vi assicuro, rispetto a quello che abbiamo visto oggi Italia-Nuova Zelanda, ultimo giorno di scuola per noi del basket, dicevo, e voglio pubblicamente ringraziare il professor Flavio Tranquillo per averci fatto compagnia, averci accompagnato. Ciao Flavio. Ciao, un grande piacere. Senti, a me vengono i brividi all'idea di vivere un'altra stagione così, e sarebbe record assoluto con il Borletti del 50-54, 5 scudetti. Mi vengono i brividi perché non vedo la fine di questo momento. Non so se chiamarlo medioevo, però un dittatore c'è, maggiordomo, dittatore, sempre lo stesso assassino del campionato. Sicuramente questo è un dato, quindi i fatti sono testardi e ostinati per loro natura. Il problema è capire, secondo me, non tanto se un bene, un male, un problema, non è un problema, che non mi sembra la questione, ma se è un dittatore che è tale solo e soltanto per i suoi meriti, che sono, e ci mancherebbe, abbondantemente visibili, ma magari non lo è anche per i demeriti degli altri, o comunque per le manchevolezze e inadeguatezze degli altri. Credo che questa ipotesi sia parte della questione, e la parte della questione che si può e forse si deve sviscerare. Certo Flavio, ma cosa manca agli altri per essere come Siena? La domanda è banale, ma di giocatori c'è pieno il mondo, puoi prendere quelli che vuoi, ce ne sono tanti bravi, insomma, puoi scoprire, puoi... Che cosa manca? Non sono i giocatori. Che cosa? Ma guarda, se andiamo indietro nel tempo, noi vediamo che questa Siena nasce un po' come reazione alla Siena precedente. La Siena precedente era costruita sostanzialmente con il criterio con cui vengono fatti, diciamo, gli olimpiacosti di questo mondo, per fare una fotografia. Chiaramente le cifre non erano quelle, ma il senso era quello. C'erano i Captain Myers, c'erano i Red Zias, c'era Kaukenas, che magari è arrivato come decimo giocatore, eccetera eccetera, come reazione al fatto che quella squadra aveva un grandissimo monte stipendi, ma arrivava fino a un certo punto e non riusciva a fare l'ultimo passo. È stata fatta una squadra con un'altra filosofia. Quindi io credo che da prendere a prestito ci sia la filosofia. La filosofia non significa andare a prendere un giocatore da Jesi, un giocatore da Capodorlando e un giocatore da Reggio Calabria, e così abbiamo fatto la squadra. Non è quello il punto. Il punto è come gestisci i giocatori quando sono lì. La presenza di McIntyre, di Stonrook, di Eze, di Sato, che erano tutti giocatori prendibili da chiunque nel momento in cui li ha presi Siena, significa che il problema non è prendere il giocatore per quello che vale in quel momento, ma è prendere il giocatore che con un certo tipo di sistema poi può diventare, magari non tutti McIntyre, però per dire tutti possono in potenza diventare Eze, che secondo me tra parentesi sposta tantissimo e lo vedremo quando non ci sarà più con la maglia di Siena, cioè dalla prossima stagione, e quindi bisogna comprare, ma non si compra al mercato, con buona pace del compianto Massimino, l'amalgama, la filosofia, la capacità di gestirli. Sì, non c'è dubbio su questo, ed è per questo che il futuro mi sembra abbastanza, abbastanza preoccupante per la pallacanestro italiana, perché questa stagione non ha lasciato moltissimo su cui costruire. Però anche qui, se la pallacanestro italiana è semplicemente ridotta alla questione vince sempre Siena perché è troppo forte, e quindi dove andiamo con una situazione in cui sappiamo già ad agosto chi vince a giugno, allora queste sono condizioni di chiusura. Bisogna anche ribellarsi mentalmente a questo, non nel senso di far vincere un altro per decreto, che non avrebbe alcun tipo di senso, ma creare le condizioni per cui anche per il bene di Siena ci sia una competizione vera, perché poi l'altra metà della storia è che se scendi in campo e hai già deciso che hai perso contro Siena, già probabilmente perdi comunque. Se poi scendi in campo avendo già deciso che hai perso, hai voglia. Senti, l'altro finalista, Milano, due finali in due anni, senza affrontare un competitor designato, una squadra di pari livello fisico, strutturale, di stipendi, eccetera. Milano ha affrontato in due stagioni solo underdog sul suo cammino. E Milano, a caso curioso mi sembra, Milano è bravissima con quelli più piccoli, ma con quelli del suo livello almeno in teoria non l'abbiamo mai vista nei playoff. No, non l'abbiamo mai vista, se non contro Siena che ha fatto 4-0. Certo, 4-0. Questo è un problema che riguarda direi molto più Roma, che ha perso un anno con Biella e un anno con Caserta, che non Milano, però è la fotografia più chiara di tutto questo stato di cose. Io non so Milano, ma sono sicuro che Roma, nome per nome, sia quest'anno che l'anno precedente, mettendo i nomi su una colonna, è in condizione di giocare con Siena, e sono abbastanza sicuro che lo sia anche Milano, soprattutto se consideriamo i primi 7-8 della rotazione in astratto. Siccome poi sul campo non sono in grado di giocarci, ripeto, il problema non sono i nomi, più che mai se continui a cambiarli. Però anche qui non è che la ricetta allora è tenere gli stessi nomi per tre anni, sarebbe come andare a prendere un altro giocatore a Iesi, un altro giocatore a Capodorlando, Ferraro, Reggio Emilia, che sia, sperando che siano il prossimo Sato, il prossimo McIntyre. O sarebbe come tenere un giocatore che non è McIntyre e non è Sato, solo per dire, visto che l'ho tenuto adesso ha fatto esperienza. Non è questo il punto, manca l'effetto moltiplicatore. A Siena c'è Minucci, Pianigiani, eccetera, eccetera, molte altre persone, il clima, il sistema, il club, ecco, bravo, il club, così, perché poi i nomi sono fuorvianti, il club invece è un'espressione migliore, da altre parti non c'è. Prima costruisci il club, poi secondo me onestamente trovare i giocatori di talento sufficiente è il minore dei problemi, paradossalmente. Tanto segna Brasile con Luis Fabiano, io volevo salutare Flavio Tranquillo facendo notare che Piagiani dice che una gara 7 che in Italia non vediamo da mille anni in finale non è sinonimo di equilibrio, è però sinonimo di emozione, perché io restando sveglio tutte le notti mi sono emozionato sul serio, come in Italia non riesco a fare guardando le finali NBA. È stata una finale di grandissima intensità, sì. Grandissima intensità, che devo dire con soddisfazione ha coinvolto anche tanti appassionati italiani. Sì, sono d'accordo con Pianigiani che non è necessariamente sinonimo di equilibrio, però poi alla fine è una serie a 7 in cui tutte le due squadre giocano veramente per vincere. Una anche se sa di avere qualcosa meno dell'altra, e l'altra anche se sa di avere all'interno qualche fenomeno di bradisismo che potrebbe portarla anche a implodere, questo significa che c'è qualche cosa più in alto, diciamo così, non sto parlando di entità terze, sto dicendo c'è un interesse più alto da parte delle stesse squadre, di quel sistema, a presentare il lato migliore quando è il momento più importante. Flavio, grazie di tutto, buona estate. Grazie a voi. È stato un piacere e sarà un piacere anche l'anno mio. Prossimo. Grazie a Flavio Tranquillo, grazie a tutti voi che ci avete seguiti. Dunque, domani alle 2 c'è Gigi Garanzini. Domani sera non va in onda il solito speciale sui mondiali, ormai consueto speciale sui mondiali, dalle 9 alle 10 e mezza, che riprenderà da martedì in poi fino alla fine dei mondiali. Domani sera c'è Federico Taddia con una serata particolare, la notte prima degli esami. Noi ci sentiamo in settimana. Buona serata a tutti.